2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa settimana iniziamo con un aggiornamento sulla puntata di sabato scorso. Abbiamo parlato delle interferenze provocate dalla telefonia di quarta generazione, il 4G, che sulla frequenza degli 800 MHz, una di quelle messe all'asta, disturba alcuni canali televisivi. Allora, la Fondazione Ugo Bordoni, 7 giorni fa, che è consulente tecnico del Ministero dello Sviluppo per questo dossier, ci ha detto che ritiene che in Italia ci siano, pensate, 700.000 impianti d'antenna, quindi probabilmente più di 1 milione di persone, che dovranno essere modificati quando il 4G verrà acceso su queste frequenze. Allora, la prima notizia che vi do è che ad inizio settimana il tavolo ministeriale sulle interferenze è saltato. Secondo il Corriere delle Comunicazioni, 3 operatori interessati, cioè Telecom Italia, Vodafone e soprattutto Wind, non hanno trovato un accordo sulla ripartizione economica delle quote destinate al fondo volontario per finanziare l'acquisto dei filtri anti-interferenza e l'intervento degli antennisti in queste case, in queste 700.000 abitazioni. A questo punto potrebbe essere, anzi probabilmente sarà, il Ministero a dire come e chi dovrà pagare. C'è stato anche un emendamento al decreto sviluppo 2.0, quindi vedremo poi quale sarà l'evoluzione. Allora, nell'ambiente c'è chi teme che questo ritardo possa poi a cascata tradursi in un ritardo nell'accensione delle frequenze 4G. Alcuni operatori sono fiduciosi, altri ipotizzano uno slittamento di mesi, addirittura c'è chi mi ha detto per un anno non vedremo l'LTE sul il 4G sugli 800 MHz, ricordiamo che però ci sono altre frequenze, infatti le accensioni di queste ultime settimane di TIM e Vodafone stanno procedendo e continueranno anche nelle prossime settimane sui 1800. Anche nel resto d'Europa gli investimenti sulle nuove reti mobili 4G proseguono comunque a velocità ridotta. Facciamo l'esempio della Francia, notizie di pochi giorni fa. SFR, da poco acceso i primi impianti a Lione, la prossima città ad essere coperta sarà Montpellier a partire dal 18 dicembre, quindi si inizia da piccole città. Gli altri 2 operatori, France Telecom e Bouygues Telecom, lanceranno il 4G all'inizio del prossimo anno. Lunedì si apre a Dubai una grande conferenza internazionale di 12 giorni, organizzata dall'ITU, l'Organizzazione Mondiale delle Telecomunicazioni. È un organo delle Nazioni Unite che definisce gli standard nel settore delle telecomunicazioni. ITU storicamente non si occupa di internet, ma alcuni grandi operatori telefonici, alcune nazioni, alcuni stati, alcuni governi vorrebbero spostare a questo livello la cosiddetta governance di internet, quindi trasformare una gestione molto distribuita e sostanzialmente libera, come si dice, multi-stakeholder, ad una più forte concentrata nelle mani dei governi. Allora, a Dubai sarà estremamente difficile ottenere un risultato, quindi cambierà poco. Alcuni stati vorrebbero un maggiore controllo della rete per limitare la libertà d'espressione. Non a caso, soprattutto gli Stati Uniti sono fortemente contrari. Andranno a Dubai con una mega delegazione di 130 persone. Gli italiani sono 2 che si alterneranno in queste 2 settimane, ma naturalmente parleranno anche altri stati per l'Europa. Purtroppo non parla l'Unione Europea. L'Unione Europea ci sarà, ma ogni Stato parla per sé. Allora, oltre agli Stati, alcune grandi società di telecomunicazioni, in particolare gli ex monopolisti europei come Telecom Italia, France Telecom, Deutsche Telecom e Telefonica, che sono riunite in un'associazione che si chiama Etno, hanno lanciato una serie di proposte agli Stati che le porteranno a Dubai. Dicevo, poco cambierà, quindi non dobbiamo molto preoccuparci, ma forse è bene pensare a quello che sta succedendo nel mondo delle telecomunicazioni, perché poi tutte queste cose avranno ripercussioni a cascata sulla nostra esperienza internet, sia che siamo utenti della rete internet nella nostra casa, nel nostro ufficio, sia che, e sono sempre di più le persone, internet sia il nostro business, il nostro lavoro. Allora, su questo, cioè su quello che sta accadendo e soprattutto sulla proposta di cambiare la regolamentazione che verrà portata a Dubai, abbiamo raccolto un parere autorevole di Stefano Trumpi. Stefano Trumpi lavora al CNR, è uno dei nomi che potremmo associare alla storia di internet in Italia, al registro, al dominio.it, e oggi è rappresentante del governo italiano presso l'Internet Governance Forum, che è un altro luogo dove ci si ritrova e si discute, ma in questo caso si discute come succede in tutti i consessi in cui si parla di internet, con la logica dei multi-stakeholder. Allora, sentiamo Trumpi sulla proposta di modifica delle regole che andrebbero a cambiare anche internet. Riteniamo assolutamente che sia inappropriato e fortunatamente è condiviso sia dal governo nostro nelle dichiarazioni dei ministri dopo l'IGF Italia di quest'anno a Torino, sia anche dalla Commissione europea e anche dal BEREC, che è il coordinamento europeo dei regolatori delle telecomunicazioni. Siamo convinti, anzi siamo sicuri, che la quantità di stati che eventualmente voterebbero queste proposte sono pochissimi. E non certamente nell'ambiente dei paesi sviluppati, non certamente in Europa. Quindi è una convinzione nostra che alla fine questo tipo di proposte comunque non passeranno. Quindi il problema si può dire che va compreso, però poi alla fine è il mercato che deve essere in grado anche di trovare modelli di business, autoregolamentazioni che soddisfino, diciamo, i vari settori dell'ambiente privato e poi ovviamente anche gli utenti. E la mia conclusione, poi detta così molto amichevolmente, che io dico a Etno, a Telecom: perché avete scelto di essere così antipatici alla comunità internet? E questo è proprio uno dei punti: perché essere così antipatici in un ambiente dove si cerca e da tempo si dialoga? Stefano Trumpi ci ha dato un quadro della situazione, ha parlato di problemi. Allora uno giustamente si domanda: ma quali sono questi problemi? Perché soprattutto le grandi società di telecomunicazioni propongono di cambiare alcune cose su internet? Va detto che gli stati propongono, alcuni stati, parliamo di stati medio orientali, la Cina, la Russia, alcuni stati vorrebbero cambiare e limitare la libertà d'espressione, ma questo è comprensibile dal loro punto di vista, certamente non è comprensibile dal nostro punto di vista. Ma altra cosa, altri problemi hanno invece le grandi società di telecomunicazioni, soprattutto gli ex incumbent, cioè gli ex monopolisti. Va detto che Neelie Kroes, che è il commissario europeo per l'agenda digitale, ha detto a proposito di internet: se non si è rotto fino adesso, perché dobbiamo aggiustarlo, cioè dobbiamo cambiarlo? Tuttavia, al di là di quello che succederà a Dubai, gli ex monopolisti continueranno la loro azione di lobby. Il mercato è cambiato molto, i loro ricavi si sono ridotti e forse si dovranno anche abituare a guadagnare un po' meno. Su internet sono nati nuovi soggetti che non hanno l'ingombro e i relativi oneri delle reti e degli investimenti connessi allo sviluppo delle reti internet. Questo va detto, i cosiddetti over the top come Google, Facebook, Skype, YouTube. Ci sono vari fenomeni che comprimono i ricavi degli operatori di telecomunicazioni e alcuni di questi fenomeni sono dovuti all'arrivo di questi over the top, servizi alternativi alla voce come Skype, oppure alternativi agli SMS come gli Instant Messenger, e un aumento del traffico dovuto essenzialmente al video. Allora, riassumiamo quali sono questi problemi, i problemi che mettono sul piatto le società di telecomunicazioni. Li riassume molto bene Luca Rossi, che è partner di AT Kearney, una società che ha fatto uno studio sul mercato TLC. Il primo problema, che poi è un'opportunità, è che il traffico internet è in crescita esponenziale, sia su rete fissa che su rete mobile. La crescita del traffico rispetto al passato non è determinata dall'aumento dei consumatori che accedono a internet, perché nella gran parte dei mercati occidentali stiamo arrivando, diciamo, a saturazione, ma è legato all'aumento del consumo per consumatore. Quindi i consumatori usano più internet, trasmettono più dati. Questo si associa, e quindi diventa un problema per le telecom, nel momento in cui il modello di prezzo a cui quasi tutti i consumatori sono assoggettati è un modello flat, piatto, quindi non è basato sul consumo ma è piatto. All'aumentare del traffico i ricavi delle telecom non crescono. Questo da una parte. Dall'altra parte, coloro che immettono i contenuti nella rete che i consumatori utilizzano non pagano a loro volta la rete. Quindi nella sintesi, diciamo, ne pagano solo un pezzo. Ne pagano un pezzettino molto piccolo, tecnicamente pagano, diciamo, il trasporto internazionale, diciamo. Quindi, nella sintesi, né il consumatore né chi mette i contenuti nella rete ha un incentivo economico ad utilizzare in maniera efficiente la rete. Quindi i contenuti, il traffico, aumentano in maniera esponenziale. Qual è la conseguenza per gli operatori di telecomunicazioni? Che debbono investire per adeguare le infrastrutture di rete e sopportare le quantità di traffico incrementali di cui stiamo parlando. Questi investimenti però non sono remunerati perché, come abbiamo detto precedentemente, non ci sono ricavi incrementali. Quindi il dilemma: investiamo senza ricavi incrementali o non investiamo e c'è un deterioramento del traffico che poi saranno, e della qualità del servizio, che saranno poi le telco in primis a, in qualche modo a sopportare con i clienti che eventualmente abbandoneranno il loro servizio. Per rispondere a questo dilemma esistono diverse opzioni e credo che poi alla fine la soluzione finale sarà una combinazione di queste. Sicuramente la prima è rivedere i modelli di prezzo verso il consumatore finale, quindi uscire da questi modelli flat e cominciare a ragionare su modelli a consumo. E questo che già però per la DSL è molto difficile. È difficile per la larga banda, è difficile anche in un contesto competitivo molto acceso come quello di quasi tutti i mercati europei, perché poi alla fine, ricordiamocelo, la regolamentazione in questo senso ha funzionato bene perché la competizione nel mobile ma anche nel fisso è particolarmente elevata. I prezzi in Europa sono molto inferiori ai prezzi americani, che tipicamente vengono portati ad esempio come mercati in cui il prezzo per il consumatore è più basso. Nelle telecomunicazioni non è così, l'Europa è più bassa. Quindi prima soluzione che voi proponete è aumentiamo i prezzi o comunque applichiamo un modello di business simile a quello che viene fatto sul mobile. Io ti do 10 mega al mese, paghi tot. Rivediamo i modelli di prezzo. Ovviamente vuol dire aumentare i prezzi per tutti, ma per coloro che consumano tanto, no, portarli in qualche modo a pagare ciò che consumano. È chiaro che qui le dinamiche competitive giocano un punto, perché se io alzo i prezzi e gli altri non li alzano diventa un po' complicato. La seconda opzione è quella di cominciare a promuovere livelli di qualità differenziati sulla rete in funzione della tipologia di traffico o di servizio offerto. Come oramai è noto, si sta diffondendo il cloud computing, quindi molti dei contenuti disponibili in rete risiedono non in un punto fisico, ma sono sul cloud, quindi sono su server dispersi. L'accesso a questi server in remoto richiede tanta banda, tanta disponibilità di banda, e l'accesso a questi servizi, soprattutto per certe tipologie di servizio, deve essere immediata. La possibilità di differenziare la qualità del servizio in funzione della tipologia di contenuto e della tipologia di soggetto commerciale con cui le telecom hanno a che fare è un'altra delle opzioni in campo. Ed è chiaro che sia nel primo che nel secondo caso saranno i rapporti di forza sul mercato, la capacità commerciale di ciascuno a determinare i punti di equilibrio finale. Beh, sicuramente non è facile comprendere le dinamiche di un mercato delle TLC che è complicato di per sé, ma poi cambia molto velocemente. Però questo è un po' il quadro e i problemi che sono messi sul tavolo dalle società di telecomunicazioni, le grandi società di telecomunicazioni, ex monopoliste soprattutto. Ci fermiamo per un minuto e riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando del settore delle TLC alla vigilia di un appuntamento importante, ma non cambierà quasi nulla per quanto ci riguarda, ma 12 giorni di grandi chiacchiere a Dubai dell'ITU. Allora, c'è chi dice che il business model delle grandi società di telecomunicazioni sia oramai inadeguato al mondo che è cambiato, e cambiare le regole, la regolamentazione a loro favore non migliori il modello di business, quindi non risolva il problema. Uno dei punti che spesso vengono sottolineati è questo. Allora, gli over the top di cui abbiamo parlato poco fa fanno un sacco di soldi, i ricavi delle società di telecomunicazioni si riducono, come abbiamo spiegato, e loro dicono non abbiamo i soldi per investire nelle reti di fibra ottica. Un motivo in più, dico io, ma non, fortunatamente non sono l'unico a dirlo, per cui le reti di prossima generazione in fibra ottica dovrebbero essere fatte dallo Stato, dalla pubblica amministrazione, e i soldi ci sarebbero, basta scegliere dove vanno messi i soldi. Allora, torniamo ai problemi sollevati dalle società di telecomunicazioni. Sono giustificati o no? Ecco il parere di Stefano Quintarelli. Ma direi che senz'altro sono giustificate, nel senso che, come da dati riportati da Luigi Gambardella, che è il rappresentante di Telecom Italia a Bruxelles, referente dell'associazione e presidente dell'associazione degli operatori di rete, sostanzialmente degli ex monopolisti legali in Europa, l'industria delle telecomunicazioni in Europa vale 280 miliardi e gli incumbent hanno avuto un calo di ricavi, i soci Etno, dell'1,5% l'anno scorso. Ora, credo che ci siano tanti settori dell'economia che a fronte di un calo dell'1,5% ci farebbero la firma, perché in momento di crisi c'è tanta attenzione ai costi. Quindi sicuramente il tema del calo dei ricavi c'è. Va anche ricordato che in una conferenza di presentazione di questa proposta di Ethno all'ITU a Londra erano presenti amministratori delegati di 11 telco che nel corso del 2011, che è l'ultimo anno in cui sono stati distribuiti i dividendi, hanno distribuito dividendi per 20 miliardi di euro, quindi stiamo parlando dividendi dell'ordine dell'8% rispetto al fatturato complessivo delle telco in Europa. Insomma, è chiaro che non è una stagione bella come prima, però insomma, io ci farei la firma a una stagione così. Chi usa internet e che è abituato a usarla con una certa libertà, sia facendo impresa su internet, sia utilizzandola da consumatore, si deve preoccupare? Bisogna preoccuparsi sempre, nel senso che sono anni che ci sono persone che si preoccupano molto di questi temi e che intervengono affinché non ci siano storture. Chiaramente 280 miliardi di euro in Europa sono una grossa cifra, una delle industrie più grosse europee, quindi ci sono grossi interessi e grandi aziende che fanno grandi investimenti in lobby per ottenere provvedimenti a loro vantaggio. Fa parte delle regole del gioco, accade da tanto tempo. E ci sono tutta una serie di pompieri che cercano di spegnere i focolai anticompetitivi là dove si presentano. Questo è stato magari poco percepito sulla parte mobile, dove comunque c'erano 3 o 4 operatori per paese che più o meno si facevano abbastanza concorrenza, perché poi gli operatori mobili sono nati più o meno tutti allo stesso momento, quindi sono magari a distanza di qualche anno, però la situazione di partenza è circa la stessa. Sulla rete fissa invece ci sono gli ex monopolisti legali che hanno una rete ammortizzata da secoli, quindi, e gli operatori alternativi sono arrivati in tempi molto successivi e quindi hanno una situazione di mercato completamente sfavorevole. Ecco, sulla rete fissa i problemi di concorrenza sono molto maggiori e se ne è accorto anche Vittorio Colao, che di recente ha sparato ad alzo zero contro eventuali proposte di una regolamentazione più favorevole per gli operatori di rete fissa. Dico a Vittorio Colao, benvenuto nel mondo delle reti fisse. Vittorio Colao, che è il numero uno di Vodafone International, che è il più grande gruppo di telecomunicazioni al mondo dopo China Mobile, ma visto che China Mobile opera in un mercato un po' strano, quello della Cina al suo interno, diciamo che come gruppi internazionali Vodafone è il numero uno, lo dicevo. Colao, parlando al Financial Times, ha lanciato un allarme sul possibile tentativo degli ex monopolisti di ottenere il via libera dall'Unione Europea per, potremmo dire, rimonopolizzare le nuove reti in fibra ottica. Colao ha minacciato di sommergere la Commissione Europea di cause, ha detto: dirò a mio figlio di fare l'avvocato e comunque per gli avvocati ci saranno un sacco di soldi. Allora, i giochi si fanno tutti a Bruxelles o abbiamo la possibilità di decidere anche in Italia quale assetto avranno le telecomunicazioni del futuro? I principi regolatori provengono da Bruxelles. E qui un governo attento può fare delle cose, perché può andare a Bruxelles a sostenere certe istanze in sede di commissione, in sede di consiglio, insomma ci sono gli strumenti perché un governo che abbia a cuore questi temi possa incidere. A livello locale poi c'è l'autorità delle comunicazioni, che è un organismo indipendente, ma c'è il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento delle Comunicazioni, che invece dipende dal governo. Quindi anche qui un governo attento può fare molto per dare un'indicazione, una linea di tendenza più o meno pro-competitiva, più o meno a sostegno del passato. È chiaro che molto dipenderà dal prossimo governo e da come questo si formerà, se avremo persone più legate ai temi del passato o più inclini al futuro. Da che parte sto io è assolutamente evidente. Digital News. La prima notizia di questa settimana riguarda iTunes, che ha quasi 12 anni dalla nascita, era il 9 gennaio del 2001. arriva la versione numero 11. L'aggiornamento è disponibile da pochi giorni. iTunes, lo ricordiamo, è il negozio digitale di Apple, il più importante nel mondo per quanto riguarda la musica, ma che è stato nel corso degli anni esteso anche al mondo dei film, delle applicazioni, dei giochi, eccetera, eccetera. Rim, il produttore del BlackBerry, è stata dichiarata colpevole da un tribunale svedese di aver utilizzato una tecnologia proprietaria di Nokia senza pagare nulla e venendo dunque meno ad un accordo che Nokia e Rim firmarono nel 2003 per condividere alcune licenze relative ad alcune tecnologie. Se le due aziende non trovassero un accordo, Rim potrebbe essere costretta al ritiro di tutti i BlackBerry presenti sul mercato europeo. Cosa che è molto difficile e molti naturalmente ritengono che le due aziende arriveranno comunque ad un accordo. Parliamo di Sky Go, l'applicazione per tablet e PC di Sky che permette agli abbonati di vedere alcuni canali in mobilità via internet. Da questa settimana l'applicazione si è aggiornata ad un numero maggiore di canali in diretta e c'è la possibilità di avere, come si dice, on the go, quindi in mobilità, Sky Go on demand, Sky on demand, di avere Sky on demand. Potremmo dire che questo sia un servizio per assaggiare la TV del futuro. Tutti i principali broadcaster italiani stanno sperimentando piattaforme sia per erogare contenuti on demand, quindi per rivedere programmi non in maniera lineare, quindi in diretta, naturalmente su internet, ma anche per fornire la possibilità di vedere su tablet, su computer, programmi che vengono erogati dalla TV. Rai sta facendo un grande lavoro e naturalmente Sky risponde con la sua piattaforma. Umberto Angelucci è CTO, quindi Chief Technology Officer di Sky Italia. Si espande sui canali lineari, che diventano 28, si espande sul cinema, ma non solo, con il servizio video on demand, si espande come device perché abbiamo aggiunto gli smartphone Android. Angelucci, visto che in questo caso dovete affidarvi alla qualità della rete internet sia fissa che mobile italiana, da questo punto di vista siete soddisfatti o no? Questa è una preoccupazione di tutti, però devo dire che finora non abbiamo avuto problemi significativi derivanti appunto dalla disponibilità della rete fissa e mobile. Abbiamo certamente, i nostri contenuti sono disponibili sotto molti con più profili di qualità, con il servizio che si adatta, questa cosa si mitiga un po'. E quindi finora in realtà non abbiamo avuto grandi problemi. Certo, aumentando i nostri clienti, aumentando i clienti, aumentando le attivazioni a questo servizio, potremmo trovare, però dobbiamo dire che abbiamo fatto anche delle scelte per poterle mitigare. Per quanto riguarda il nostro servizio a casa, sul nostro decoder usiamo il progressive download. Su Sky Go il problema potremmo trovare di più sui lineari, in corrispondenza dei big match, dei live event, perché poi sull'on demand noi pensiamo che comunque il consumo si distribuisca un po' di più durante la giornata. 2024. Riprende 2024 in questa puntata del primo dicembre. 2024 è il programma di Radio 24 che vi racconta come la tecnologia ci cambia la vita e oggi sicuramente vi racconteremo alcuni esempi di come la tecnologia ci cambia la vita. Parliamo di social TV. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta: 800 24 00 24. Anche gli sms 349-238-6666, ma sempre più spesso al posto degli sms si usano i social media, i social network, ad esempio Facebook, e potete utilizzare anche la pagina Facebook di 2024, o ancora di più Twitter. Usa molto Twitter Marta Cagnola. Ciao Marta, benvenuta. Ciao Enrico, mi stavo distraendo perché stavo twittando. Infatti, devo dire che i social network sono una fonte di distrazione molto elevata. Stavo twittando dicendo a tutti: accendete la radio, che allora, ci siamo io ed Enrico. Io sono consapevole che Video Killed the Radio Star, che il video ha vinto sulla radio, anche se la radio si difende. Beh, però molto sono passati più di 30 anni da quella canzone lì. Esatto. Quindi diciamo che gli ha dato una bella pacca. Tu sai benissimo, lo diciamo agli ascoltatori, che io guardo molto poco la TV e a volte mi sorprendo quando parlate magari in redazione di alcuni programmi, dico: ma cos'è sta cosa, sta roba? Allora, visto che tu segui, oltre che per piacere, insomma, la TV, anche per lavoro, perché segui tutto il settore dell'intrattenimento a Radio 24, tu guardi molto spesso la TV e un giorno mi dici: ma perché non parliamo di social TV? Che cosa intendiamo per social TV? Ma diciamo subito che tu mi hai risposto: ah, quelle cose che, con cui tu perdi tutto il tempo, dai, mi sgrida sempre. Allora, noi che amiamo guardare la televisione vorremmo avere dei grandissimi divani per guardare la televisione insieme a tutti i nostri amici. Spesso non è possibile, perché non solo perché ognuno sta a casa propria, ma perché spesso ognuno sta a casa propria, uno a Roma, uno a Milano. Allora cosa facciamo? Commentiamo insieme i programmi televisivi grazie ai social network. Quindi interagiamo con Facebook, ma soprattutto con Twitter e con altri sistemi dei quali parleremo, guardando tutti lo stesso programma televisivo. Allora, questo è un fenomeno che negli Stati Uniti soprattutto è iniziato da un po' di tempo. In Italia potremmo, diciamo, la pietra miliare numero uno, chi l'ha messa? Beh, io direi Fiorello. Un annetto fa Fiorello ha lanciato il suo... Fiorello, che era già appassionato di Twitter, poi è sparito, ma insomma lui è stata la prima celebrity, la prima star televisiva a usare davvero Twitter e a dare proprio l'impulso all'uso di Twitter in Italia. Insomma, più o meno tutti sono d'accordo su questo argomento. Lui ha lanciato il suo show, il suo evento, e l'aveva chiamato il più grande spettacolo dopo il weekend, ma non si scriveva normalmente, si scriveva tutto attaccato col cancelletto davanti, e gli italiani hanno scoperto cos'era l'hashtag. Ovviamente all'inizio l'ha dovuto spiegare, rispieghiamolo. Allora, l'hashtag è una parola chiave che si scrive tutta attaccata e davanti c'è il cancelletto. Serve ad esempio per contraddistinguere tutti i tweet relativi allo stesso argomento, e quindi si possono fare delle ricerche. Allora, in questo caso quelli che usano Twitter hanno capito, ma lo sapevano già, non tutti, devo dire. Quelli che non usano Twitter forse non hanno ancora capito. Comunque, visto che tutto parte dai social network, in questa scheda raccontiamo alcune cose per chi si è perso qualche puntata. Se fosse una nazione, sarebbe oggi la terza al mondo per numero di abitanti dopo Cina e India. Facebook ha oggi oltre 1 miliardo di iscritti. Il loro numero cresce ogni minuto. Twitter ha superato i 500 milioni. LinkedIn quasi 200. E YouTube è oggi la piattaforma di condivisione video più importante al mondo. Il secondo motore di ricerca della rete dopo Google. Condividere pensieri, foto o video. Commentare, dare e ricevere informazioni in tempo reale, trovare lavoro, controllare la propria reputazione online. I social network sono fatti di contenuti generati dagli iscritti, che si intersecano tra di loro in un flusso continuo e tumultuoso. Sono la più grande rivoluzione della rete internet, e le loro dinamiche sono ancora ben lontane da essere state comprese e sfruttate. Secondo i dati che ci ha fornito questa mattina Vincenzo Cosenza di Blogmeter, in Italia Facebook, giusto per dare qualche numero e qualche riferimento, ha, pensate, 22,5 milioni di utenti, LinkedIn 3 milioni, Twitter 4,5 milioni di visitatori mensili e Pinterest, che è un altro social network emergente, 500.000 visitatori mensili, cioè praticamente nulla. Sicuramente un grande ruolo ce lo ha Facebook, ma Twitter cresce. Ah, Marta, agli utenti di Twitter aggiungiamo anche, sentite, il Papa, perché lunedì il Vaticano ha annunciato che dal 3 dicembre, quindi da lunedì, anche Benedetto XVI avrà un proprio account. Ci hanno detto che però non sarà lui a scrivere, no. Ci sarà uno suo staff che probabilmente andrà là con un... Però io me lo sarei immaginato. Il Papa mette la bolla papale, dice, il suo imprimatur, schiaccia lui invio. Esatto. Allora, vi proponiamo un'intervista, poi vi presentiamo i due ospiti che parteciperanno alla nostra trasmissione, un'intervista che abbiamo realizzato con Matteo Flora, che è amministratore delegato di The Fool, una società che si occupa di ricerche in ambito social, non solo. Abbiamo parlato di social network, del ruolo che hanno i cosiddetti influencer sui social network e di quello che sta succedendo nel mondo della TV. Quest'anno è stato l'anno un po' di esplosione di quasi tutti i social network e di come le aziende utilizzano i social network. In questo ambito troviamo non più i 10, 100, 1000 utenti che parlano, ma troviamo decine di migliaia, se non centinaia di migliaia. È fondamentale capire quali sono tra questi gli utenti che hanno più influenza sugli altri, cioè gli utenti ritenuti più capaci piuttosto che più notori, e quelli che sono in grado di generare più discorsi dietro a quello che loro vanno a raccontare sui social network. In questo modo, riuscendo a coinvolgere proprio loro, riusciamo a aumentare la nostra popolarità, a aumentare tutto quello che viene chiamato engagement, cioè la partecipazione all'interno della community, usando degli asset importanti, gli stessi utenti che sono considerati migliori. Quindi ci sono alcuni utenti che riescono ad influenzare la community che sta, che ne so, che segue un prodotto, un programma televisivo, la politica ad esempio, perché questo è un altro grande tema. Qual è la tua definizione di influencer? Beh, la mia definizione è solo quella accademica, cioè colui che modifica il comportamento di qualcuno o fa svolgere azioni a qualcuno senza esercitare un'autorità diretta. Quindi non lo obbliga a commentare, non lo intima di rispondergli, ma semplicemente perché è più piacevole degli altri, perché ha un atteggiamento diverso o perché è estremamente competente, riesce a suscitare delle reazioni negli altri. Quindi una sorta di carisma digitale. Assolutamente sì, è un'ottima definizione. L'influencer è colui dotato di un carisma digitale superiore agli altri. Tu hai parlato in una presentazione che c'è stata al Sole 24 Ore all'interno di di un seminario di IAB che si occupa di pubblicità interattiva, hai parlato molto di TV e di social network. Per quale motivo? Beh, perché quest'anno abbiamo assistito proprio all'esplosione in maniera esponenziale del fenomeno Twitter e televisione. Stiamo parlando di un fenomeno che ha coinvolto nella nostra analisi più di 650.000 tweet da luglio ad oggi, quindi stiamo parlando di una imponente quantità di tweet e soprattutto più di 1.200.000.000 di impression, cioè di potenziali visualizzazioni di questi tweet. Un fenomeno di queste dimensioni va assolutamente preso in esame e va analizzato per capire quali saranno anche i trend futuri nei prossimi mesi, che probabilmente vedranno assolutamente la stessa esplosione. E dall'analisi che voi avete fatto, che cosa avete capito? Naturalmente in pochi minuti non possiamo riassumere una ricerca che tu hai presentato molto complessa, molto completa, con una mappa tra l'altro molto bella, ma sicuramente un riassunto ce lo puoi fare. Abbiamo capito ad esempio che i primi 20 utenti, i primi 20 influencer generano il 45% di tutte le visualizzazioni dei tweet. Abbiamo capito che aumentando questi da 20 ai primi 1000 generano il 75% delle impression. Quindi sono pochi che muovono tutto. Esattamente. Abbiamo capito che il concetto di influencer è assolutamente reale ed è una necessità, perché conoscere questi 1000 utenti mi consente di movimentare migliaia e migliaia, se non centinaia di migliaia di altri utenti. Abbiamo capito poi anche che gli utenti parlano di qui e adesso, parlano di stasera, parlano del programma, parlano quindi in contemporanea con la visione del programma. Questo va a confermare quello che è l'ipotesi che tanti stanno facendo del second screen, il secondo device con cui un utente usufruisce dei contenuti televisivi. Questo accade soprattutto per la TV, o la TV è una delle tante entità che come le aziende utilizzano il social network? C'è qualcosa di diverso? La TV sembra spingere gli utenti, probabilmente perché sono seduti e non sono distratti da molto altro, a interagire in maniera più sostanziale. Gli utenti che interagiscono con la televisione però sono quasi tutti utenti abituali, quindi quando non parlano di televisione parleranno di altro, e in questo ci sono brand, in questo ci sono persone, in questo ci sono movimenti politici correnti, ma anche semplicemente emozioni e stati d'animo. Senti, le TV lo hanno capito questo? Quanto? Secondo me le TV le hanno capito. Dopo l'esplodio di quest'anno di X Factor e di tanti altri programmi televisivi, hanno assolutamente capito che questo può essere una fonte estremamente importante di traffico, non solo web, ma anche proprio televisivo. Quindi tu pensi che il coinvolgimento attraverso i social network possa portare più spettatori proprio? Secondo me assolutamente sì. L'effetto trascinatore di Twitter è assolutamente una realtà che è da dare consolidata. Nel momento in cui trovo decine di miei contatti che stanno commentando qualcosa in televisione, è curiosità umana quello di approcciare e vedere la stessa cosa, nemmeno un fenomeno coercitivo. Hai citato Twitter perché in questo caso, essendo stiamo parlando di programmi televisivi in diretta, live, il social media è Twitter. I social media non è Twitter. Facebook diventa assolutamente importante per la singola trasmissione. Il bello di Twitter è che Twitter rappresenta una community non così frammentata. Quindi, mentre se io vado a commentare sulla pagina del Grande Fratello, magari non commento sulla pagina di X Factor, in Twitter io vedo uno stream di contenuti, un flusso di contenuti che provengono da tutti i fenomeni in simultanea. Questo fa in modo che sia possibile, come abbiamo anche dimostrato, una forte contaminazione tra diversi programmi che magari stanno andando in diretta, dove gli utenti passano dall'uno all'altro e commentano dall'uno all'altro senza soluzioni di continuità. Questo è 2024, stiamo parlando di social TV, adesso ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Emanuela Zaccone, uno dei fondatori di Talk TV ed è una social media analyst. Emanuela, benvenuta a 2024. Grazie Rico, ciao. Che cosa fa un social media analyst? In realtà prende tutta quella marea di dati e informazioni, un po' come i dati che citava poco fa Matteo nell'intervista, e dà loro un senso, in qualche modo interpretandoli ma anche trasformandoli in strategie o comunque dando un senso compiuto a quella che sennò sarebbe una mole praticamente indistinta di dati grezzi. Qual è la tua definizione di social TV? In realtà non ne ho una univoca, nel senso io lo dico ormai da un paio di anni, social TV vuol dire tante cose. Non è soltanto, anche se in gran parte questo, parlare dei vari programmi TV su Twitter mentre magari sono in diretta, ma non è soltanto neanche tutta l'area tecnologica che in qualche modo abilita queste possibilità. È un po' tutto questo insieme di pratiche. Quindi è un po' il fatto che hai a disposizione una serie di applicazioni su mobile o una serie di potenzialità date dalle smart TV, oppure anche il fatto che puoi commentare un programma su Twitter piuttosto che su Facebook. Sono tutti questi insieme di attività messe insieme che di fatto poi rendono la social TV quel complesso complesso insieme di pratiche e di interessi che la caratterizzano. Sicuramente, Marta, il grande evento è il momento in cui si può capire che cosa significa social TV, cioè l'interazione degli utenti che commentano, che poi fanno... Sì, questo si riflette anche un po' nel modo in cui sta cambiando la televisione generalista, e per generalista intendo sia satellitare che del digitale terrestre, perché ad esempio insomma i grandi eventi come X Factor, come i grandi talent show, come Amici, ma anche come il grande evento di Celentano o gli eventi politici sono ormai quelli su cui le reti investono dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle aspettative di ascolti. Cioè, ci sono i grandi eventi che catalizzano grandi masse, e invece per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, bene, quella si può anche gestire on demand, con l'ascolto in differita, con i vari MySky, con i registratori. Insomma, il grande evento è quello su cui si catalizza l'attenzione, si catalizzano le aspettative e anche l'attività del social networking. Prima Emanuela citava alcune applicazioni, ad esempio a me viene in mente il fatto che tutti noi che adoriamo sperimentare i nuovi social network ci siamo fatti attrarre qualche tempo fa da Miso, ce n'è un altro, c'è anche GetGloom, insomma in Italia abbiamo soprattutto cominciato a sperimentare un po' Miso, una sorta di, in molti conosceranno e utilizzeranno ad esempio Foursquare, no? Arrivi in un posto e fai check-in, dici sono arrivato qui, e frequentando lo stesso tipo di posti per un po' di volte guadagni dei badge, cioè come degli stemmini da puntare sulla giacca per dire io sono stato in 10 musei, in 50 librerie, insomma fai un po' il figo con questi badge. Anche con Miso succede la stessa cosa, io ho visto tutte le puntate di Gossip Girl, allora conquisto questo badge. Io direi che cos'è Gossip Girl? Ma perché sei un maschio non lo sai, okay. Poi te lo spiego alla fine della comunque, trasmissione. Diciamo, ho visto il telegiornale e posso dire guardo alla comunità tutte le puntate di servizio pubblico, sì, ad esempio, okay, sì. Intanto dico alla mia comunità di Miso sto guardando servizio pubblico e tutti sanno che sto guardando servizio pubblico, e più programmi di attualità guardo, più arrivo a ottenere dei badge. Ecco, ma tu, diciamo, guadagni cosa? Guadagni solo questo è interessante. In divertimento, cioè... Soprattutto da questo punto di vista dei badge. In America si guadagna anche... Si guadagna sicuramente dal punto di vista... Dell'appagamento, di avere alcuni tipi di badge, per dire, appunto, anche su Foursquare, così... E siccome qui dobbiamo mettere sul tavolo le carte più pesanti, insomma, la social TV è divertente, ma le televisioni dovranno pur guadagnarci qualcosa. E poi, infatti, anche di questo parliamo. Ricorda ai nostri ascoltatori il nostro numero verde, perché sì, è bello usare i social network, però visto che la radio, l'unica cosa che può fare, non può mettere in sovrimpressione i tweet, ma vogliamo sentire la vostra voce, allora il nostro numero verde 800240024, anche per chiedervi ad esempio se utilizzate queste cose, se non ci avete capito nulla e avete delle domande. Paolo Lorenzoni, social media manager di Sky Italia, benvenuto. Grazie molte, buongiorno a tutti. Diciamo subito che fino a un anno fa non c'era nemmeno il social media manager a Sky. Sì, non c'era ancora, nel senso che in realtà la funzione social media è stata inaugurata a gennaio di quest'anno all'interno della più ampia direzione Brand Communication e Innovation. Probabilmente era arrivato un po' il tempo, come dicevate anche voi a inizio trasmissione, e l'esigenza si è fatta sentire forte soprattutto in un gruppo così innovativo come Sky. Senti, noi ti abbiamo invitato perché sicuramente Sky con X Factor ha messo in piedi una piattaforma, una app, e comunque fa un utilizzo dei social media molto forte. Che cosa ci fate con i social media? Ci spieghi un po' anche cosa succede quando c'è X Factor? Sì, in realtà X Factor arriva, se vogliamo, verso la fine dell'anno a seguito di un percorso di progettazione di complessità sempre maggiore. Ricordiamo tutti che quest'estate ci sono state le Olimpiadi a Londra, l'evento più twittato di sempre al mondo, e Sky come official broadcaster ha iniziato un percorso sui social media con oltre 200 ore di live tweeting, quindi di commento, di telecronaca in diretta tra luglio e agosto. Quando siamo arrivati a X Factor abbiamo cercato di aumentare ulteriormente il coinvolgimento del nostro pubblico, che è un pubblico comunque molto molto affezionato al programma, e abbiamo creato un sistema di social media gamification, cioè un gioco che attraversa diverse piattaforme social media in un unico sistema. Significa che, come ben sapete, durante la diretta è possibile giocare, interagire con una serie di funzioni come il voting, o ancora dei quiz, o il famoso applausometro. Questo lo faccio dire a Marta, che piace molto, me l'ha spiegato. Io non sapevo nemmeno la punta delle dita. Spiega cosa vuol dire. Allora, l'app di X Factor, io devo fare complimenti a Sky, è divertentissima, perché appunto ci sono delle notizie in più, quelli che si chiamano trivia in gergo, e poi c'è la possibilità di votare, e faccio una parentesi, ieri ci stavamo bevendo un cappuccino, io ed Enrico, al bar del Sole, e ci siamo ricordati di quando, qualche anno fa, la Rai, qualcuno si era inventato il sistema di votazione facendo accendere e spegnere le luci di casa per misurare Raffaella Carrà l'ha fatto, per misurare la tensione. Grazie a un accordo tra Rai ed Enel, il 1001 luce, i telespettatori potevano votare i concorrenti, quindi insomma, ragazzi, tanti anni fa. Adesso invece come si vota? Non c'è più non bisogna per forza mandare un SMS, e sappiamo che gli SMS per votare nei vari drenano soldi, ma c'è questa, oltre alla possibilità di votare col decoder, c'è anche la possibilità di votare tramite questa app di X Factor, che dà la possibilità appunto di dare 5 voti a ogni tornata di votazioni, ma anche di esprimere il proprio apprezzamento tramite l'applausometro, e quindi si fanno non dei click ma dei tap, così, esatto, così, e si fa si sposta il c'è Paolo Corleone in regia che ride, perché secondo me si sta immaginando la cagnola sul divano che utilizza, è verissimo, tutte queste cose, si applaude il vincitore, cioè il proprio preferito, il proprio beniamino. Vorrei chiedere ad Emanuela Zaccone se queste cose portano anche soldi, perché abbiamo citato prima, Matteo Flora citava, e questa è una cosa che voglio dire agli ascoltatori perché la sentiranno, magari l'avranno già sentita, il famoso second screen, cioè il secondo schermo. Uno guarda la TV ed è il primo schermo, il secondo schermo può essere un tablet o uno smartphone con cui fare appunto queste cose, cioè interagire con il programma. Queste cose portano anche soldi, perché naturalmente uno potrebbe domandarsi perché investire denaro e assumere il social media manager, creare queste piattaforme? Beh, allora, la risposta in realtà è sì, portano soldi, nel senso che all'inizio uno dei problemi che ci si era posti quando vennero lanciate applicazioni come Miso, che ci dava pure Marta, ma anche GetGlue, cioè applicazioni basate sui check-in, è stato proprio, vabbè, ho capito, gli utenti si divertono, in qualche modo vincono dei badge, piuttosto che guadagnano punteggi, quindi entrano in una classifica, però di che cosa vivono effettivamente poi i produttori di queste applicazioni, piuttosto che le emittenti, che in qualche modo comunque spendono soldi e tempo a cercare di gestire questi canali. Diciamo che ci sono state varie vie che sono state man mano intraprese. Ad esempio, una delle prime azioni fatte da GetGlue sono stati una serie di accordi negli Stati Uniti con i vari broadcaster per la vendita, ad esempio, a prezzi scontati dei cofanetti delle serie TV. Quindi la fedeltà a cui faceva riferimento Marta, quindi il fatto che io veda tutte le puntate di una determinata serie, veniva premiata alla fine della serie stessa, della stagione della serie, non solo regalandomi il badge fedeltà, ma anche dandomi uno sconto sull'acquisto del cofanetto. Man mano poi si è visto che non era un modello del tutto vincente, e soprattutto la domanda che tutti si facevano era sempre la stessa, e cioè, mentre nel flusso televisivo io posso comunque fare dell'advertising, quindi in qualche modo vivo anche del fatto che ci sono degli inserzionisti che mi pagano la pubblicità, di che cosa vivo se la gente comincia effettivamente ad utilizzare le applicazioni second screen su tablet e a prestare maggiore attenzione a quelle piuttosto che non a quello che sta andando in onda sulla televisione. A quel punto ci furono tutta una serie di altri esperimenti. Allora, per esempio, Miso, per tornare all'esempio che dicevamo, è stato tra i primi a sapersi evolvere, quando si è capito che i sistemi a check-in, che in Italia per quanto riguarda la social TV possono anche essere un caso recente, ma che negli Stati Uniti ormai andavano avanti almeno dal 2009, a quel punto si cominciò a dire, va bene, ci possono essere degli altri sistemi che mi possono consentire da un lato di offrire delle funzionalità nuove agli utenti e dall'altro di avere anche un guadagno di tipo economico. Quindi ad esempio Miso è stata tra le prime applicazioni che, grazie a un sistema proprio di sincronizzazione con il flusso audio di quello che si stava vedendo. Poi ne parliamo della sincronizzazione con l'audio, perché anche dal punto di vista tecnologico è molto divertente. Paolo, voi ci fate pubblicità sull'applicazione che avete creato per X Factor o le altre applicazioni che avete creato? Sì, sono presenti anche i nostri sponsor all'interno dell'applicazione mobile. Quindi questa è già una fonte di ricavi per Sky? Sì, sicuramente è un primo passo in questo senso, ma in realtà gli indicatori, come dire, di business, se vogliamo, banalmente possono anche essere altri. Cioè, la verità è che c'è un rapporto biunivoco tra il successo di coinvolgimento attraverso la partecipazione sui social media e i risultati d'ascolto. Non è un caso che i due grandi eventi che abbiamo citato finora, quello delle Olimpiadi e quello di X Factor, sono stati innanzitutto dei grandi successi di pubblico da un punto di vista televisivo. Ecco, a proposito di pubblico, faccio solo una ultima domanda prima della pubblicità, poi riprendiamo dopo. Stiamo parlando di quante persone che partecipano, e quindi anche in percentuale, ad una puntata di X Factor su social network? Noi in questo momento abbiamo una presenza di circa 2 milioni e mezzo di persone sui due principali social media che utilizziamo, Facebook e Twitter, e il sistema di gamification di cui dicevamo prima di X Factor ormai vede presenti in diretta durante ogni puntata più di 120.000 utenti unici. Che quindi è una bella... Ci puoi dare un'idea di percentuali? Cioè sono la metà, un terzo? No, sicuramente possiamo dire che siamo ampiamente sotto un quarto del pubblico complessivo, ma in realtà è un po' difficile calcolarlo in termini percentuali rispetto al pubblico televisivo. Diciamo che senza dubbio a un incremento della partecipazione online vediamo una crescita percentuale da un punto di vista poi di ascolto televisivo. Bene, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, stiamo parlando di Social TV, il nostro numero verde 800240024, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata dedicata alla social TV, cioè l'uso dei social network per grandi, soprattutto i grandi eventi televisivi, come dicevamo all'inizio. Abbiamo parlato di sponsor, abbiamo parlato degli hashtag e possiamo dire, Marta, che una delle evoluzioni che stiamo vedendo è che addirittura l'hashtag diventa sponsor o lo sponsor diventa hashtag, non lo so. Beh sì, perché faccio ancora l'esempio di X Factor, magari poi farò anche un esempio che riguarda Amici, così facciamo un po' di par condicio. Allora, X Factor ha uno sponsor che patrocina una sorta di contest all'interno della gara, la gara tra le migliori esibizioni. X Factor intanto è una di quelle trasmissioni che lanciano spesso gli hashtag in sovrimpressione, non solo l'hashtag XF6 che utilizziamo normalmente, ma quando c'è un ospite particolare viene lanciato un hashtag che riguarda quell'esibizione. Poi magari chiediamo come mai e se questa cosa ha successo. Ci sono anche gli hashtag che possono riguardare il contest dello sponsor, lo sponsor stesso. Quindi insomma si può far rientrare lo sponsor della trasmissione anche nell'hashtag. E per quanto riguarda lo sponsor della trasmissione, cosa che invece fa Amici ha ideato, Amici che in questo periodo sta facendo il casting su Canale 5, quindi la scelta dei ragazzi che entreranno poi nella scuola eccetera eccetera, ha la possibilità, lo sponsor dà la possibilità di ripescare dei ragazzi eliminati nel casting grazie invece a Facebook. Quindi c'è una pagina Facebook dello sponsor nella quale si possono votare i ragazzi esclusi. Dal punto di vista tecnologico, Emanuela, prima abbiamo parlato di sincronizzazione con l'audio. Questo è un aspetto interessante sia dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista poi dell'uso che si può fare di piattaforme social, ma soprattutto di applicazioni che vengono create per programmi televisivi. Ci spieghi di che cosa si tratta? Sì, allora, praticamente quello che succede, detto proprio semplicemente, è che queste applicazioni in qualche modo fanno una sorta di matching, cioè capiscono tramite, banalmente utilizzando il microfono del vostro smartphone o del tablet, capiscono a che punto siete del programma che state guardando, quindi esattamente il minuto, il secondo in cui vi trovate. Questo per offrire dei contenuti che sono aggiuntivi, quindi immagina ti stai guardando una serie TV o banalmente una partita in televisione e ti offrono delle statistiche, quindi dei contenuti diversi che si vanno ad aggiungere a quelli che tu già stai fruendo sul mezzo televisivo, ma possono essere pure contenuti di carattere pubblicitario, quindi ad esempio in quel caso possono generare proprio delle revenue di carattere propriamente commerciale. Dei ricavi. Sì, dei ricavi, esatto. Paolo, voi utilizzate questa tecnologia, cioè assieme al segnale televisivo mandate un codice che viene riconosciuto dal microfono del tablet o dello smartphone e fa scatenare una serie di cose, giusto? Giusto, è esattamente la tecnologia che utilizziamo all'interno dell'app di X Factor. Quindi potete immaginare una scaletta della gamification, quindi una scaletta che scandisce i vari momenti del voting, dell'applausometro, del trivia e quant'altro, che viene costruita ad hoc, puntata per puntata, insieme alla classica scaletta autorale televisiva. E l'applicazione riconosce attraverso l'audio il momento in cui pushare, cioè in cui inviare i diversi segnali sul device per permettervi di votare piuttosto che di applaudire i diversi concorrenti. Secondo voi, visto diciamo dal punto di vista di Sky, questo utilizzo dei social network vi porta anche degli abbonati? Ma direi che questa è una domanda molto complessa, nel senso che non ci può essere una risposta univoca, per due ragioni. La prima è che in realtà gli obiettivi di vendita commerciali legati ai social media in questo momento sono il grande punto di domanda non soltanto del mondo broadcasting ma di tutti i brand che al mondo stanno investendo e stanno utilizzando i social media. Ma l'altro aspetto è che bisognerebbe differenziare ancora per piattaforme e qui faccio un esempio molto banale. Lo si diceva nell'intervista iniziale con Flora, in cui appunto veniva detto che ci sono delle differenze fra una piattaforma e l'altra. Nel momento in cui sto twittando con l'hashtag ufficiale di X Factor XF6, io porto quell'hashtag in trend topic, ovvero lo porto nella speciale classifica degli argomenti più discussi in quel momento su Twitter. Quella classifica è accessibile da tutti gli utenti che utilizzano Twitter in Italia in quel momento, quindi ho un volume di possibili spettatori pari al volume complessivo della piattaforma Twitter, si dice, anche se le stime in realtà sono ufficiose, oltre 4 milioni ormai. Ecco, una differenza è proprio quella: rispetto a Facebook, Twitter permette all'intero ecosistema della piattaforma di vedere quali sono gli argomenti più discussi, e non è un caso che moltissimi spesso twittino il giovedì sera quanto vorrei avere Sky, perché in questo momento sto, tra virgolette, rosicando per poter vedere anche X Factor. Certo, sicuramente questa è una cosa che ad ogni considerazione che i nostri ospiti emerge, sicuramente la mole di dati, come ci diceva all'inizio della chiacchierata Emanuela Zaccone, è così ingente e soprattutto così interessante che i social media analyst cresceranno nei prossimi anni, la cosa si raffinerà sempre di più, e stiamo parlando anche di nuove professioni. Pochi giorni fa, Sole 24 Ore, si è tenuto un evento organizzato dallo IAB su social media e pubblicità, parlavano le radio, parlavano le TV, e le sale erano pienissime, si sta creando proprio una nuova economia. Emanuela, ancora non ti ho fatto dire nulla e adesso è arrivato il momento di raccontarci che cos'è Talk TV. Allora, Talk TV si scrive TOK.TV o TV, dipende. È esattamente il suono, Talk è esattamente il suono, il modo in cui viene pronunciato, quello che italianamente leggeremo come Talk. Quindi fa riferimento proprio a un tema in qualche modo vocale. Questo perché l'idea originaria che avevamo quando abbiamo fondato Talk TV era in qualche modo quella di ricreare l'esperienza televisiva domestica. La nostra idea era che dal momento che eravamo parecchio tutti interessati agli eventi sportivi, ci chiedevamo come faccio a vedere effettivamente una partita con i miei amici, con mio fratello, mio padre, quello che vogliamo, se loro effettivamente non abitano qui. È vero che posso commentarla in diretta su Twitter o attraverso altre piattaforme o applicazioni, ma se io volessi effettivamente comunicare soltanto con loro, se volessi in qualche modo avere un'esperienza che simuli quella che è classicamente la tipica esperienza domestica, come potrei fare? L'idea di Talk TV banalmente nasce proprio da questa domanda. E Talk TV, che adesso ha appena lanciato Talk Baseball a inizio ottobre, stiamo adesso lavorando a Talk Football, se non altro perché siamo basati negli Stati Uniti, a San Francisco, quindi il focus in questo momento è sugli sport americani, di fatto vi consente di aggiungere fino a 4 amici, quindi di poter parlare con loro contemporaneamente durante la partita in TV, e allo stesso tempo vi offre tutta una serie di dati e di statistiche relativa alla partita che state guardando in diretta sul vostro tablet, quindi al momento un'applicazione per iPad, e lo fa sincronizzandosi, quindi capendo esattamente a che punto della partita vi troviate. Questo per evitare una cosa banale, e cioè che mentre state guardando la partita e c'è un'azione rilevantissima, immaginatevi se fosse un home run, ad esempio nel caso del baseball, vi ritrovate a strillarlo e sostanzialmente a fare da spoiler a chi vi sta ascoltando. L'idea in qualche modo è quella di ricreare quell'intimità tipica del soggiorno domestico, per l'appunto, che in qualche modo si perde o tende ad aumentare invece nelle conversazioni partecipate più pubbliche, come sono ad esempio quelle su Twitter. Sì, devo dire, è interessante questa cosa del ritardo della sincronizzazione, perché ci sono molte persone che vedono X Factor o con il più uno, oppure lo riguardano quando viene trasmesso su cielo la domenica sul digitale terrestre in chiaro, e quindi il giovedì sera impazziscono perché dicono: non ditemi niente, non devo aprire Twitter perché mi dicono già chi è stato eliminato. Invece così potrebbero seguire il flusso dei tweet o con un'ora di ritardo se lo guardano col più uno, o direttamente sì, la domenica. Sì. C'è un nostro ascoltatore che dice: perché non parlate anche di social radio? Allora, tutte le radio fanno uso dei social network, ma direi che, qua, devo dire, purtroppo, visto che il bello della radio è che si possono fare altre cose mentre si ascolta la radio. Tipicamente la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori guida oppure sta in casa e fa altro. Il fenomeno che abbiamo descritto, che ha dato un forte impulso all'uso dei social network, cioè quello del second screen, è molto forte nella TV, perché nella TV sei obbligatoriamente, quasi obbligatoriamente, quando ci sono questi eventi, seduto su un divano, e quindi puoi fare dell'altro. Mi sembra che questo sia un po' il discrimine. Sì, sì, purtroppo, certo, per noi. Beh, sicuramente è proprio una esperienza di fruizione completamente diversa. E poi anche qui il fatto che sia molto legata agli eventi, diciamo che la radio è meno legata agli eventi, esatto, ma più all'amministrazione quotidiana. Insomma, grazie al cielo noi arriviamo regolarmente, ci siamo sempre, siamo una certezza, una sicurezza. Se accende la radio e Radio 24 c'è sempre. Siamo un evento in sé, continuativo, un flusso di un eventi. Un flusso, esatto. sì, continuativo. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade. Vi ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile attraverso il servizio podcast di 2024, tra poco. 2024. Paolo Lorenzoni, per quanto vi riguarda, anche guardando a quello che succede all'interno del vostro gruppo News Corporation a livello internazionale, che cosa ci dobbiamo aspettare come evoluzione di questa interazione tra la TV, intesa come tradizionale, cioè uno davanti ad uno schermo, e i social network, internet in generale dall'altra parte? Dicevo all'inizio, sicuramente Sky e News Corp hanno nel proprio DNA il valore dell'innovazione. Quando diciamo che quello televisivo e dell'evento in particolare è poi un'esperienza totalizzante, diciamo una cosa sì vera ma parziale. Sapete che Sky anche in Italia quest'anno ha lanciato Sky Go, il servizio in mobilità, che tra l'altro proprio ieri è stato ulteriormente arricchito anche con l'esperienza on demand, cioè la possibilità di scegliere al di là dei canali lineari il film, per esempio, che si vuole vedere in quel momento. Ecco, quella è sicuramente un'ulteriore evoluzione, perché in realtà l'intera app di Sky Go è stata progettata in maniera tale da rendere condivisibile l'esperienza. Lo dicevamo ancora all'inizio, così come Miso rende possibile fare il check-in sui programmi preferiti, così anche Sky Go ti permette di condividere la locandina, per esempio, o un commento personale su Facebook o su Twitter del film che si è appena selezionato. Quindi questo è anche un esempio di social TV. Paolo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo buon lavoro, a presto. Grazie molte, a presto, buon lavoro anche a voi. E prima di salutare Emanuela Zaccone, vorrei chiedere anche a te che cosa ti aspetti per i prossimi anni. Direi proprio che è un po' esagerato, perché qua fra qualche anno potremmo, chissà. Potremmo forse non parlare più di social TV e chissà di che cosa. Per i prossimi mesi che cosa ti aspetti? Beh, di sicuro in ambito social TV si svilupperanno tantissimo tutti i macro temi legati agli analytics su quello che si sta dicendo online, alla loro trasformazione in altro, fosse anche quello che diceva Matteo, quindi nell'individuazione degli influencers piuttosto che a capire come meglio applicare le strategie o come modificare i programmi a partire dai feedback ricevuti online, come quelli che citava ad esempio Paolo, da un lato. Dall'altro, sicuramente a livello tecnologico penso che ci sia molto da dire nell'ambito delle applicazioni che si basano proprio sulla sincronizzazione audio e che possono fare molto. Poi il grande gioco ovviamente nell'ambito dell'advertising e nello sviluppo di modelli di business, che mi sembra sia il tema che abbiamo individuato un po' tutti. Sì, la pubblicità sui social network. Una domanda molto banale, avevo parlato molto di Twitter. Tu pensi che per quanto riguarda la TV sia quello il social network da utilizzare più spesso? Io credo sinceramente che sia il più agile. Ho visto tanti esperimenti fatti da Facebook, però è vero che tendono a essere effettivamente, come dire, sporadici e non hanno quel carattere rapido che invece contraddistingue Twitter. Quindi al momento per me sì, resta il miglior social per parlare di televisione. Bene, io ti ringrazio. Emanuela, grazie per essere stata con noi. A presto. Grazie, grazie a voi. Ricordo i nostri ospiti, sono stati con noi Paolo Lorenzoni, social media manager di Sky Italia, Emanuela Zaccone, uno dei fondatori di Talk TV e social media analyst. Marta, per concludere questa trasmissione, non c'è però il rischio che, visto che Twitter, lo diciamo spesso, è utilizzato da 4 milioni di persone, quindi da una minoranza in Italia, mentre Facebook più di 22 milioni di persone, stiamo parlando di una massa ingente. Non è che c'è il rischio che sia una chiacchierata, una discussione tra esperti, perché sono anche molti esperti di TV. Sì, ci sono molti addetti ai lavori, molti addetti ai lavori che addirittura danno notizie, perché i giornalisti sono spesso attaccati a Twitter, ad esempio di pochi giorni fa le nomine dei nuovi direttori di Rete Rai. Ebbene, Giancarlo Leone, nuovo direttore di Rai 1, che è un influencer di Twitter, cioè una persona che twitta molto e dà proprio notizie che riguardano la Rai, ha twittato una foto dei tre nuovi direttori, anche il direttore di Rete, Andrea Vianello, molto presente su Twitter, una foto in cui ognuno di loro faceva con il segno con la mano 1, 2, 3. Insomma, quindi effettivamente questo è un ambito molto interessante per gli addetti ai lavori. Twitter è ancora un po', forse per l'amore degli italiani per Facebook, Twitter è ancora, riguarda ancora una minoranza di persone. Però sicuramente, appunto, chi influenza il dibattito, chi detta l'agenda, come si dice in gergo, sta lì. E poi mi viene da sorridere pensare che fino a un po' di tempo fa, insomma, il problema era che la gente andava in bagno durante le pubblicità, invece adesso altro che. Esatto. A parte che grazie alla tecnologia oggi andare in bagno, non sempre con tutte le piattaforme così, però diciamo che l'evoluzione porterà a far sì che su tutte le TV ci sarà il tasto stop anche per la diretta. E adesso vado abbiamo in bagno scoperto anche per il live tweeting, perché Senti, abbiamo parlato molto di Sky, che sicuramente anche per motivi commerciali di concorrenza deve essere al top, cioè deve fare, diciamo, deve essere all'avanguardia per raccogliere anche abbonati, anche perché poi gli abbonati dicono paghiamo e vogliamo di più. Rai, Mediaset e La 7 come si stanno comportando da questo punto allora, di vista? Allora, stanno sperimentando sicuramente in maniera meno aggressiva, però ad esempio la Rai secondo me ha delle ottime possibilità di evoluzione con Rai 4 e Rai 5, che sono dei canali molto attenti alle novità. Ad esempio mi viene in mente Culture, che è una trasmissione di Rai 5 molto legata alla rete, e bene, ha fatto la conferenza di presentazione su Twitter. È un esempio. Sì, su Twitter, insomma. Quindi sono due canali molto presenti, però ad esempio sulla 7 le invasioni barbariche avevano fatto la loro app, Mediaset ha una piattaforma di interazione con Italia 2, Mediaset utilizza ancora, molti programmi utilizzano ancora Facebook, le comunità di Facebook. Io sono abituata a ragionare molto di più in termini di Twitter, però effettivamente quasi tutte le trasmissioni ormai hanno la loro pagina di interazione. E poi ad esempio l'app utilissima secondo me di Rai TV, che ti permette di seguire le dirette e anche tutti i programmi in differita, almeno quelli per cui possiedono i diritti di trasmissione web, hanno comunque tutti questi programmi un button di condivisione per segnalare agli altri qualcosa di interessante, quindi le cose si muovono un po' sotto tutti i punti di vista. Poi ci sono anche delle piattaforme nuove che nascono come commentaindiretta.it, anche qui piattaforme che non riguardano un canale o un editore, però che permettono di interagire anche sulla TV tradizionale generalista, sui canali Rai Mediaset. Tu hai citato l'applicazione di Rai TV e devo dire che va citata e va sottolineata, perché visto che questo è servizio pubblico, devo dire che da questo punto di vista la Rai ha fatto un'ottima piattaforma. Utilissima. E anche su internet la Rai permette di rivedere i programmi dell'ultima settimana, quelli per cui tu dicevi, insomma, hai diritti, però sono la stragrande maggioranza. Devo dire che questo è molto molto utile, e la stessa possibilità esiste su i decoder, su una buona parte di decoder per il digitale terrestre e di TV. Con l'applicazione MHP è possibile proprio sulla TV rivedere i programmi di Rai con questo servizio Rai Replay. Molto utile. Molto utile. Vorrei concludere da dove siamo partiti. Bisogna essere collegati a internet, cioè naturalmente, però. Mamma mia, noi purtroppo siamo always on, come si suol dire. Siamo partiti da Fiorello. Concludiamo con Fiorello, perché in questi giorni è tornato a fare la sua edicola Fiore. Lui fa una rassegna stampa proprio dall'edicola con i suoi amici e la mette solo su internet, su YouTube. Adesso ha fatto questo esperimento con Telly, che è una piccola applicazione televisiva. Ebbene, lui ha proprio un suo contenitore della sua edicola che non va su nessuna TV, lui la fa solo per il web. Potrebbe essere una nuova frontiera anche questa. Sì, cioè l'artista che diventa editore di se stesso. Sì, lui prende il suo smartphone, fa la sua rassegna stampa e la mattina io mi sveglio col caffè e mi guardo l'edicola di Fiorello. Bene, grazie a Marta Cagnola per essere stata con noi. Noi ti risentiamo domattina al 8:30. C'è il nostro 140 caratteri domattina 8:30 con Stefano Dorazio e Francesco Baccini. A proposito di Twitter, 140 caratteri è proprio lo perché spazio. Perché noi tutta la settimana twittiamo i nostri però contenuti. diamo un consiglio, visto che abbiamo gli ultimi due minuti, diamo un consiglio. Se potete, fate dei tweet più corti di 140, così permettete il retweet o comunque la citazione del tweet più agevolmente. Lo so, bisogna sempre fare delle violenze alla grammatica, come si suol dire. Bisogna farli corti corti questi tweet. Bene, grazie Marta, buon lavoro e buon divertimento. Questo è 2024, concludiamo questa puntata in cui ci siamo divertiti a parlare di una evoluzione, di una nuova frontiera, di un nuovo modo per guardare la TV e anche, visto che non perdiamo mai di vista anche il business, anche nuovi posti di lavoro, nuovo business, perché sicuramente in questo settore, nel settore dei social network, stanno nascendo nuove professioni. Questo è importante in un momento in cui soprattutto i giovani soffrono di carenza di offerta di lavoro. Allora ringrazio Paolo Corleoni che si è occupato della parte tecnica anche in questa puntata di 2024. E poi in redazione Anita Panizza e Nadia Zammitti. Per raggiungerci potete utilizzare la posta elettronica durante la settimana molto semplicemente scrivendo il titolo del nostro programma 2024, quindi 2024@radio24.it. E potete seguirci anche su Facebook, su Twitter. Ah Marta, dai, visto che sei ancora qua, ricordiamo i nostri... il nostro account, ecco, ah, vabbè, sì, sì. Io posso essere seguita con chiocciola Marta Cagnola, ma anche con chiocciola 140 caratteri R24. Benissimo, io invece sono chiocciolina e underscore Pagliarini. È tutto per questa puntata, ci risentiamo la prossima settimana. La prossima settimana potremo dire che concluderemo il tragitto che abbiamo fatto attraverso la TV, poi non ne parliamo più per un po', e parleremo di televisori, quelli veri e propri, e parlando anche di quello che sta succedendo in Giappone. Ci risentiamo fra 7 giorni. 2024.